Ondivago Doc, documenti sonori. Ondivago ha un fratello colto, che si chiama Ondivago Doc. Tutti hanno un fratello colto. Questa rubrica si occuperà di documenti sonori, letterari ed artistici, attingendo ad archivi della rete, selezionando e tentando di procedere secondo un ordine cronologico. Con archivi come ubu.com si parte dalle avanguardie storiche per arrivare agli sgoccioli del Novecento. Il futurismo, di cui sono recenti le celebrazioni, è il primo ad essere trattato. Il movimento è fondato da Marinetti nel 1909 e costituisce la prima fra le avanguardie e l'unico vero movimento artistico italiano internazionale del Novecento. Dovremmo arrivare fino all'arte povera per trovare qualcosa di analogo in quanto ad espansione internazionale. Il futurismo, che cos'è? Una fede nel futuro? Una glorificazione della macchina? Leggere il Meridiano dedicato a Marinetti, senza tralasciare l'introduzione di Palazzeschi, può essere un primo inizio. Il futurismo è un sentimento, o meglio un molteplice sentire, una religione in cui la velocità è l'energetica preghiera, in cui una vita impetuosa pervade e trasforma tutto. Confluiscono in questa fede modernista le filosofie di Bergson, Nietzsche e le teorie dell'italiano Morasso. I documenti sonori che seguiranno ci dimostrano come la trasformazione futurista, la ricostruzione futurista dell'universo, parta dalle parole e dai suoni, dai rumori della città che sale. I brani appartengono a quell'antologia ad opera di Arrigo Loratotino che prese nome Futura, realizzata negli anni 70. Ed è lo stesso Totino ad interpretare con sorprendente personificazione Marinetti. Primo brano che sentiremo è appunto del Marinetti stesso. E seguiranno invece le interpretazioni di Totino. Il primo brano che ascolteremo si intitola Battaglia del 1935 di Filippo Tommaso Marinetti. È l'unico brano in cui possiamo ascoltare la voce di Filippo Tommaso Marinetti, la voce originale. Ogni 5 secondi cannoni d'assedio sventrare spazio con un accordo. Pam, bum bum. Ammutinamento di 500 echi per azzannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pom-pum, spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare scoppi, tagli, pugni, batteria, tiro rapido, violenza, ferocia, regolarità. Questo basso grave, scandali strani, folli agitatissimi, acuti della battaglia, furia, affanno, orecchi, occhi, narici, aperti, che gioia, vedere, udire, fiutare, tutto, taratatà delle mitragliatrici, strigliare per di fiato, sottomorsi, schiaffi, pit-pac-pum-tum, pit-pac-pum-tum, vitarie, salti 200 metri, fucileria. Giù, giù in fondo all'orchestra, stagni di guazzare, buoi, bufali, pungoli, carri, flick-flack, zin-zin, shock-shock, illeri, nitriti, tre battaglioni bulgari in marcia, croc-crap, croc-crap, sumi in marizza, o carvavena, trrrr, gran, gran, 200 tanti in arrivo, cian, tum, tum, 149 in partenza, ta-ta-ta-ta-ta-ta, croc-crap. Grida gli ufficiali sbattacchiare come piatti d'ottone, pan di qua, pan di là, cin, bum, bum, pum, ciò! Bello, vampe, vampe, vampe, ribalta di forti, vampe, vampe, vampe, vampe, ribalta di forti, vampe, vampe, vampe. Laggiù, dietro quel fiume, Shukri Pasha comunica telefonicamente con 27 forti in turco e tedesco. Allo, Ibrahim Rudolf, allo, allo! Attori, ruoli, echi, suggeritori, scenari di fumo, foreste, applausi, odore di saldito, odore di marcio, non sento più i miei piedi gelati. Timpani, flauti, clarini, dovunque, basso, alto, uccelli, cinguettare, beatitudine, ombria, brezza verde, silenzio. Cip, cip, cip, cip, cip, cip. Rrrr, gran, gran. I pazzi bastoni, i professori d'orchestra, questi bastonatissimi, suonare, suonare, grandi fragori, non cancellare, anzi precisare, minutissimi rottami di echi, nell'ampiezza del teatro di guerra, 500 chilometri quadrati, fiumi illustri, tungia, marizza, sdraiati. Il fiume, il fiume, il fiume, un ferito vi lava la sua gamba insanguinata, fra mormorì, gorgogli, nostalgie d'acqua verde. Alture, palchi, logione, 2000 shrapnel, sbracciarsi, sbracciarsi, esplodere, esplodere, esplodere, fazzoletti bianchissimi pieni d'oro, pum, tum, tum, tum, tum, pum, tum, tum tum tum tum, 2000 granate di guerra a strappare, con schianti, schianti, capigliature nerissime, spigonate di fosforo, tum tum tum tum tum tum. Immensa orchestra di guerra, gonfiarsi sotto una nota di silenzio, tenuta nell'alto cielo, pallone sferico, dorato, sorvegliare i tiri. Il tema è quello del conflitto, della guerra sola e igiene del mondo, della guerra come utopica rinascita, pars destruens, un atteggiamento inaccettabile oggi, che però ha il suo interesse. Il secondo brano che ascolteremo si intitola Battaglia, peso più odore, del 1912, nella performance di Luigi Pennone, Arrigo Loratotino e Sergio Cena, tratto appunto dal LP Futura Poesia Sonora. Mezzogiorno tre quarti. Flauti, gemiti, solleone. Tum-tum! Allarme, gargares, schiantarsi, crepitazione, marcia, tintinnio, zaini, fucili, zoccoli, chiodi, cannoni, criniere, ruote, cassoni, ebrei, frittelle, pane all'olio, cantilene, botte, gucce, zaffate, lustreggio, cispa, puzzo, cannella. Muffa, flusso, riflusso, pepe, rissa, sudiciume, turbine, arance in fiore, filigrana, miseria, dadi, scacchi, carte, gelsomino più noce moscata, più rosa, arabesco mosaico, carogna, pungiglioni, acciabattio, mitragliatrici uguale, ghiaia, più risacca, più rane, tintinnio, zaini, fucili, cannoni, ferraglia, atmosfera uguale, piomba, più lava, più 300 fettori, più 50 profumi, selciato materasso, detriti, sterco di cavallo, carogne, flic flac, ammassarsi, cammelli, asini, frastuono, cloaca, suc degli argentieri, dedalo, seta azzurro, galabie, porpora, aranci, mucarabie, arche scavalcare, biforcazione, piazzetta, pullulio, conceria, lustra scarpe, gandura sburnus, formicolio, colare, trasudare, policromia, avviluppamento, escrescenze, fessure, tane, calcinacci, demolizione, acido fenico, calce, pidocchiume, tintinnio, zaini, fucili, zoccoli, chiodi, cannoni, cassoni, frustate, panno da uniforme, lezzo d'agnelli, via senza uscita, a sinistra imbuto, a destra quadriglio, chiaroscuro bagno turco, fritture, muschio, giunchiglie, fiore d'arancio, nausea, essenza di rose, insidia, ammoniaca artigli, escrementi borsi, carne più, mille mosche, frutti secchi, carrube, ceci, pistacchi, mandorle, banani, datteri, tum tum, caprone, couscous ammuffito, aromi, zafferano, catrame, uovo fradicio, cane bagnato, gelsomino, gaggia, sandalo, garofani, maturare, intensità, ribollimento, fermentare, tuberosa, imputridire, sparpagliarsi, furia, morire, disgregarsi, pezzi, briciole, polvere, eroismo, fuoco di fucileria, pip, pam, pum, pum, pam, pam, mandarino, lana fulva, mitragliatrici, raganelle, ricovero di lebbrosi, piaghe, avanti! Carne madida, sporcizia, soavità, etere. Tintinnio, zaini, fucili, cannoni, cassoni, ruote, benzoino, tabacco, incenso, anice. Villaggio rovile, bruciato. Ambra, gelsomino, case sventramenti, abbandono, giarra di terracotta. Tum tum! Violette, ombrie, pozzi, asinello, asina. Cadavere, sfracellamento, sesso, esibizione. Aglio, bromi, anice, brezza, pesce, abete nuovo, rosmarino, pizzicherie, palme, sabbia, cannella. Sole, oro, bilancia, piatti, piombo, cielo. Seta calore, imbottitura, porpora, azzurro, torrefazione. Sole uguale, vulcano, più 3000 bandiere, atmosfera, precisione, corrida, furia, chirurgia, lampade, raggio, bisturì, scintillio, biancherie, deserto, clinica per 20.000 braccia, 20.000 piedi, 10.000 occhi mirini, scintillazione, attesa, operazione, sabbie, forni di navi, italiane, arabi, 4.000 metri, battaglioni caldaie, comandi stantuffi, sudore, bocche fornaci. Per Dio, avanti! Olio, vapore, ammoniaca, gaggie, viole, sterchi, rose, sabbie, barbaglio di specchi, tutto, camminare, aritmetica, tracce, obbedire, ironia, entusiasmo, ronzio, cucine, dune guanciali, zigzag, rammendare, piedi, mole, scricchi, olio, sabbia, inutilità, mitragliatrici uguale, ghiaia, più risacca, più rame. Avanguardia a 200 metri, caricate la balletta, avanti! Arterie, rigonfiamento, caldo, fermentazione, capelli, ascelle, rocchio, fulvore, biondezza, aliti più zaino, 18 kg, prudenza, uguale, altalena, ferraglie, salvadanaio, mollezza. Tre brividi, comandi sassi, rabbia, nemico, calamita, leggerezza, gloria, eroismo, avanguardia a 100 metri. Mitragliatrici fucilate, eruzione, violini, ottone, bim bum pattin dum, mitragliatrici, avanguardie a 20 metri, battaglioni formiche, cavallerie ragne, strade uguali, generale isolotto, staffette cavallette, sabbia rivoluzione, obici tribuni, nuvole graticole, fucili martire, shrapnel aureole, moltiplicazione, addizione, divisione, obici sottrazione, granata cancellatura, grondare, colare, frana, blocchi, valanga, avanguardie a 3 metri, miscuglio, andirivieni, incollarsi, scollarsi, lacerazione, fuoco, sradicare, cantieri, frana, cave, incendio, panico, accecamento, schiacciare, entrare, uscire, correre, zaccare, viterazzi, cuori, ghiottonerie, baionette, forchette, mordere, trinciare, puzzare, ballare, saltare, rabbia, cani, esplosione, obici ginnasti, fragori, trapezzi, esplosione, rosa, gioia, ventri innaffiatoi, teste football, sparpagliamento, cannone 149 elefante, artiglieri cornac, issao, collera, leve, lentezza, pesantezza, centro, carica fantino, metodo, monotonia, allenatore, distanza, gran premio, parabola X luce, tuono, mazza, infinito, mare, uguale, merletti, smeraldi, freschezza, elasticità, abbandono, mollezza, corazzate, acciaio, concisione, ordine, bandiera di combattimento, prati, cielo, bianco di caldo, sangue. Il terzo brano che ascolteremo si intitola Dune, parole in libertà. Risvolto storico, estetico e comunicativo. Dune è un brano messo in scena nella raccolta Futura e reinterpretato grazie all'iniziativa di Arrigo Lora Totino. È un brano del 1914 in cui le dune diventano forme del movimento, della giovinezza e della vita e dell'amore e in cui il sole emana una potente energia. Ascoltiamo quindi Dune, parole in libertà, di Filippo Tommaso Marinetti. Del 1914. Cara zuc, zuc, zuc, cara zuc, zuc, zuc, cara zuc, zuc, zuc. Nadi, nadi, dune, dune, dune, sole bruciaticcio, dune, dune, dune, dune. Dum. Dum, dum, dum, dum, der buca, dum, noia bianca, dum, più lana del rumore, dum, del pensiero, imbottigliatura, dum, sonora del cielo, rumore, dum, rotativo del sole, dum, ricordi, dum, incotonati, tamburi, dum, delle midolle, dum, tunnel di suoni neri, dum, nelle montagne incandescenti, dum, della luce. Ocra, più ottone, più cannella, 18 chilometri. Violini, gatti, scricchiolia di tutte le porte romantiche, palle, timpani, turbini di neve nei fili telegrafici, corde del vento tese sul naso dello chauffeur, sotto l'archetto tortuosissimo della strada irruente. Giallo, giallo, acredine, orina, sudore, gaggia, sudiciume, gelsomino, pancia di banchiere, arare coi piedi, sudiciume, sabbia, cuscini, coricarsi, sete, sete, rumore, più peso del sole, più odore arancione del cielo, più 20.000 angoli ottusi, più 18 semicerchi d'ombra, più mineralizzazione di piedi negri della sabbia di cristallo. Decagono della sensibilità motrice. Dune del mio corpo quindicenne regalato a tutto. Sette dune, corpi femminili attraversate dalla carovaniera. Duna sincopata, successo, sfortuna. Dune tristi soddisfatte della volontà se frustrante. Dune morte del già fatto, pensato, scritto. Dune della giovinezza lontanissima forza. Dune veloce della vecchiaia corrente, prossima, più prossima, schifo. Dune di remote schiere amiche, curve su altri fuochi. Dune dell'orgoglio, più odore di vulva in velocità. Dune nude della mia fronte viaggiante. Distanze, dune, stirarsi, ondulazioni, angoli, angoli. Modellare wow. Sabbia, smussarsi, wow. Levigare, wow. Levigare sono lenza wow. Al vento, paracalli, wow. Arterie scarlatte, wow. Gioia di pagare a un wow. Ladro il prezzo del prurito, wow. Contabilità wow. Delle unghie, mezzo chilo di formaggi. Wow. 26 kg di carne femminile, Rau. Spirali d'un fumo azzurro, odore di vitello arrosto, bettola di Rothschild, ampiezza 1000 km quadrati, tre Rau. Corazzate di carne velina, due capitani Rau. Di piombo fuso, Rau. Vomitati dal sole, Rau. Friggente equatore. Sete! Urli bianchi concentrici di 14 lune impazzite, affogarsi lune tonde quadrate, torcersi sbrigare, 30 metri Cucra. Di bufella, notte, crucra crumirare di cammelli, vento tornitore di dune, più nervi, più rimorsi, più nausee, più sterchi, più barracani in fuga eccentrica. Vento, negatore di pigrizia, inerzia, congelare tutto con stelle letterarie sradicate dalla carne. Notte libraria, seppellire tutto con odore da pelle, materassi di profumi, mammelle corte, piacere più 7000 ragionamenti scettici. Sangue, affermatore, ottimismo, forza, respingere il vento, pessimismo, caldo, freddo. Andare senza scopo per fare vivere, correre, essere. Sole, oliatore universale. Menù d'un pranzo di sei Lac, coperti Lac, al lume ciccia. Di una lucciola. Primo, antipasto di cacavic nostalgin. Secondo, ciccia. Angoscette al sugo. Lac, Lac, terzo, rimorschif in bianco. Lac, Lac, quarto, presentiment lung allo spiedo. Lac, Lac, quinto, grappoli emorroidali. Lac, Lac, sesto, orina d'aceta frappè. Clac, clac, cic, cioc. Sedersi comodamente Aì. In quattro sulla punta Aì. Dello spillo. Bellezza signorile, grigio perla del vento che porta a spasso l'incendio le vrette vestita di rosso. Ferocissimo sole! Sentimentale! Seccato di lacrime. Sui giovani esploratori traditi da mogli amanti, solennità d'un cornuto sulla linea dell'equatore. Accecante di lacrime rosse. Letterina tiepida, sudante sul petto, dilatarsi d'una parola scritta, gomito nudo, affusolarsi di nuvola, mano, tenue nel caldo, tre giorni di marcia, dune, dune, dune. Costa, il postale, 8 giorni, Genova, Parma, eccomi, baci! Zing zing, zing zing! Tradizionale d'un letto di provincia. Cara zuc, zuc, zuc, cara zuc, zuc, zuc. Sei stato un eroe! Zing zing quis, Nadia! Zing zing quis! Floscezza di campane bagnate, mature, cadenti. Cadenti! Dal ramo altissimo, antichissimo, odore di bucato, acace, muffa, legno tarlato, cavolicotti, zinzang, di casseruole, buio ammoniacale d'una tenda di beduini, dune, dune, dune. Seguono i brani di Giacomo Balla, quindi una successione di brani in cui possiamo ascoltare l'interpretazione sempre di Totino riguardo a Giacomo Balla. Il primo testo si intitola Discussione sul futurismo di due critici sudanesi. Farzonisnaco. Enz. Bordubalo patumpi manusa. Zutufuraf. Sfagataka. Uhbubs. Mimitirikita. Uhul. Pluku. Hakikirikimim. Sbubu. Hakatakafs. Farofutus baka. Azuinam imopatolavudrom. Grr, grr, grr, snyak, snyak, snyak. Ruto finru. Stike, stite, stite, stite, stite. Ein sinusgraf. Wow, wow, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit, zit. Il testo che ascolteremo in questo momento si intitola Macchina tipografica, come il precedente del 1914. Il terzo testo che ascolteremo si intitola Paesaggio più temporale. Giacomo Balla non finisce di stupire. Spaunum taunum. Craenti bum. Saettanti bum. Calma. Gran palla di fuoco si spande nello spazio. Il quarto brano che ascolteremo si intitola L'annoiata del 1920. Oh, che noia! Si siede, si alza, si veste, si sveste, si sdraia, si alza, s'affaccia, si specchia, s'arriccia, si incipria, piglia, lascia, lascia, piglia. Oh, che noia! Ma che oh, ma che oh, ma che noia, ma che oh, ma che oh. Ma che o, ma che oca. Il quinto brano pronto per noi si intitola Canzone di maggio del 1914. L, l, l, l, l, l. Titato, titato, titato, titati, titati, titati, titato, titato, titati, titati, titati, titati, titati. Proseguiamo, sempre di Giacomo Balla, con il funerale a Piazza Termini. Del 1918. Piove, ombrelli aperti, lacrimanti, lacrimanti, folla nera, tralara, lara, la la, tralara, la, la, la. Dietro la bara, forse unico dolore, tralara, la la la la. Treno che arriva, me ne infischio! Finiamo con Il pigro di Giacomo Balla del 1920. Il pigro alla mattina appiccicato al letto studia e pensa e pensa e studia e ristudia e ripensa E sempre nel letto straripensa e studia e pensa e studia e stupido diventa. La rilettura dei brani futuristi, fatta da Totino, si rivela divertente e inaspettata. Con questi brani di Giacomo Balla finisce Ondivago Doc e finisce anche la prima puntata di Ondivago, col quale abbiamo fatto il nostro primo percorso ondoso attraverso la letteratura e le arti. L'analisi del futurismo e il viaggio all'interno della letteratura proseguiranno nella prossima puntata. Ondivago, parcours ondoyant travers la littérature, les arts et la culture. Un programme conçu et présenté par Max Ponce avec la collaboration de Daniela Terrier et Pietro Pedone. Mixage Alessandro Gianotti. Production du Club du Livre de Bruxelles et Poésie à Total et de Turin. Info ondivago.blogspot.com. Email ondivagoradio@gmail.com.